Osvaldo si trovava in tale disposizione quando si affrettò ad andare da Corinna e non entrò mai in casa sua con più dolce sentimento di speranze di amore, ma per un moto naturale di timidezza cominciò a incoraggiare se medesimo con parole insignificanti. In tal numero ci fu la domanda di condurre a lei il signor Edgermond. A questo nome Corinna si turbò visibilmente e si oppose con voce commossa a quanto desiderava Osvaldo. Egli ne rimase estremamente meravigliato e le disse: «Io credevo che in una casa dove ricevete tutti il titolo di mio amico non sarebbe motivo di esclusione». «Non vi offendete, milord», riprese Corinna, «credetemelo pure. Occorre che io abbia ben forti ragioni per non acconsentire a ciò che voi desiderate». «E queste ragioni me le comunicherete voi?» riprese Osvaldo. «Impossibile!» esclamò Corinna. «Impossibile!» In tal guisa, dunque, cominciò Osvaldo, e la violenza della sua passione, rompendogli la parola, volle partire. Corinna, allora tutta piangente, disse in inglese: «In nome di Dio, non partite se non volete lacerare il mio cuore!» Quelle parole e quell'accento agitarono profondamente l'anima di Osvaldo ed egli si mise a sedere in qualche distanza da Corinna, appoggiando la testa a un vaso di alabastro che illuminava quella stanza. Poi all'improvviso le disse: «Donna crudele, voi vedete che vi amo, voi vedete che 20 volte al giorno sono pronto a offrirvi la mia mano e la mia vita, e voi non volete dirmi chi siete. Ditemelo, Corinna, ditemelo!» ripeteva nello stenderle la mano con la più tenera espressione di sensibilità. «Osvaldo!» esclamò pure Corinna. «Osvaldo, voi non sapete quale male mi fate! Se io fossi tanto insensata da dirvi tutto, se io lo fossi, voi non mi amereste altrimenti!» «Grande Iddio!» egli riprese. «Che avete voi dunque da rivelarmi?» «Nulla!» rispose Corinna. Nulla che mi renda indegna di voi, ma delle combinazioni, delle diversità dei nostri gusti, le nostre opinioni, che un tempo sono state in vigore e che non lo sarebbero più. Non esigete assolutamente da me che io mi faccia conoscere. Un giorno forse, un giorno, se mi amate abbastanza, se... Ah, io non so quel che dico», continuò Corinna. «Voi saprete tutto, ma non mi abbandonate, vi prego, prima di sentirmi. Promettetemelo. In nome di vostro padre che soggiorna in cielo, non proferite mai questo nome», gridò Lord Nelville. «Sapete voi forse se ci riunisce o ci divide per sempre? Vi immaginate voi che egli acconsenta alla nostra unione? Se ne siete persuasa, attestatemelo. Non vivrò più nell'agitazione e nei tormenti. Vi dirò poi una volta quanto è stata trista la mia vita, ma presentemente osservate in quale stato mi trovo e in quale stato voi mi mettete». Infatti la sua fronte era bagnata da freddo sudore, il suo viso era pallido e le sue labbra tremavano nell'articolare appena queste ultime parole. Corinna gli si mise a sedere accanto e, stringendogli le mani tra le sue, lo richiamò adagio adagio a se stesso. «Mio caro Osvaldo», gli disse, «domandate al signor Edgermond se sia mai stato nel Northumberland, o almeno se vi è stato soltanto in questi ultimi 5 anni. In tal caso solamente voi potete condurlo qui». Osvaldo, a queste parole, guardò fissamente Corinna. Ella abbassò gli occhi e si tacque. Lord Nelville le rispose: «Farò quel che mi ordinate». E partì. Tornato a casa, egli almanaccava sui segreti di Corinna. Gli pareva evidente che ella avesse dimorato lungo tempo in Inghilterra e che il suo nome e la sua famiglia dovevano esservi note, ma qual motivo mai poteva avere di celarle e perché aveva ella lasciata l'Inghilterra se vi aveva una volta abitato? Questi diversi quesiti agitavano eccessivamente il cuore di Osvaldo e gli era persuaso che nulla si potesse scoprire di male nella vita di Corinna, ma temeva egli una combinazione di circostanze che potesse renderla colpevole agli occhi altrui, e più che altro temeva la disapprovazione dell'Inghilterra. Si sentiva abbastanza forte per non valutare quella di ogni altro paese, ma la memoria di suo padre era così intimamente collegata col pensiero della sua patria che questi sentimenti si aumentavano a vicenda. Osvaldo Seppe dal signor Edgermond che era stato per la prima volta nel Northumberland l'anno scaduto e gli promise di condurlo la sera medesima a Corinna. Egli vi giunse il primo per avvisarla delle idee che gli aveva concepito di lei e la pregò a provargli con modi freddi e riservati quanto egli si fosse ingannato. «Se lo permettete», riprese Corinna, «io mi comporterò con lui come con tutti gli altri». Se egli desidera di sentirmi, io improvviserò apposta per lui, in poche parole mi porrò in mostra tale quale sono. E credo, tuttavia, che egli scorgerà la dignità dell'anima mia semplice condotta, quanto se pigliassi un'affettazione di riserva. Sì, Corinna, rispose Osvaldo, sì, voi avete ragione. Ah, qual mai sarebbe l'errore di colui che volesse alterare nella minima cosa la vostra ammirabile ingenuità? Il signor Edgermond giunse in quell'istante col resto della conversazione. Sul principio della serata, Lord Nelvil si situò accanto a Corinna e, con un interesse in cui si univa il carattere di amante e di protettore, diceva tutto ciò che poteva porle in pregio. Le dimostrava un rispetto che aveva per scopo più di dare legge all'altrui riguardo che di appagare se stesso, ma ben presto si accorse della inutilità di tutte le sue inquietudini. Corinna si accattivò interamente il signor Edgermond e se lo accattivò non solo col suo spirito e coi suoi vezzi, ma con l'ispirargli ancora quei sentimenti di stima che i caratteri ingenui ottengono sempre dai caratteri onesti. E allorché ardì di chiedere che ella si facesse sentir cantare sopra un argomento a suo beneplacito, egli bramava, si fatta grazia, con rispetto uguale al suo vivo desiderio. Ella vi acconsentì, senza farsi pregare un momento, e seppe provare nello stesso tempo che si fatto favore aveva un prezzo indipendente dalla difficoltà di ottenerlo. Ma ella aveva un desiderio così vivo di piacere a un compatriota di Osvaldo, a un uomo che per la considerazione che meritava poteva influire sulla sua opinione, parlandogli di lei, che questo sentimento la riempì istantaneamente di una timidezza che era affatto nuova. Ella volle incominciare e sentì che l'emozione le troncava la parola. Osvaldo, per parte sua, soffriva, vedendo che non si mostrava un inglese in tutta la sua sublimità. Egli abbassava gli occhi e il suo disordine era tanto palpabile che Corinna, unicamente occupata dell'effetto che la produceva su di lui, perdeva sempre più la presenza di spirito necessaria per il talento di fare dei versi improvvisati. Finalmente, vedendo che ella esitava, che le parole erano suggerite dalla memoria e non dal sentimento e che ella non dipingeva conformemente ai suoi pensieri e a ciò che la sentiva realmente, si fermò tutto a un tratto e disse al signor Edgermond: «Perdonatemi se la timidezza mi invola oggi i miei talenti. I miei amici lo sanno che questa è la prima volta in cui mi sono trovata infinitamente inferiore a me medesima. Ma forse mai accadrà di nuovo?» Ella aggiunse sospirando. Osvaldo fu profondamente commosso della interessante debolezza di Corinna. Fino allora egli aveva veduto sempre l'immaginazione e il genio trionfare delle sue affezioni e riconfortare la sua anima nei momenti in cui era maggiormente abbattuto. Questa volta il sentimento aveva debellato affatto tutto il suo spirito e nonostante Osvaldo si era talmente identificato in questa occasione con la gloria di Corinna che aveva sentito pena del suo turbamento invece di gioirne. Ma siccome egli era sicuro che ella brillerebbe un altro giorno di quello splendore che le era naturale, così si diede in preda, senza ulteriore rammarico, alla dolcezza delle osservazioni che andava facendo, e l'immagine della sua amica regnò più di prima nel suo cuore. Fine del primo volume. Corinna di Madame de Staël, volume secondo. Libro settimo, Letteratura italiana, capitolo primo. Lord Nelvil desiderava vivamente che il signor Edgermond gustasse la conversazione di Corinna, che poteva stare al confronto di tutti i suoi versi estemporanei. Nel giorno seguente si radunò in casa sua la stessa società e per impegnarla a parlare fece cadere il discorso sulla letteratura italiana ed eccitò la sua vivacità naturale. affermando che l'Inghilterra possedeva maggior numero di veri poeti e poeti superiori per l'energia e sensibilità a tutti quelli dei quali si poteva vantare l'Italia. Oh, in primo luogo, rispose Corinna, gli stranieri non conoscono nella maggior parte che i nostri poeti di prima classe, Dante, Petrarca, Ariosto, Guarini, Tasso, Metastasio, mentre che ne abbiamo molti altri, come Chiabrera, Guidi, Filicaia, Parini, senza contare Sannazzaro, Poliziano, che hanno scritto in latino con ingegno, i quali tutti riuniscono nei loro versi il colorito con l'armonia. E tutti sanno con maggior o minor talento fare entrare le maraviglie delle belle arti e della natura nei quadri delineati dalla parola. È certo che nei nostri poeti non v'è quella malinconia profonda e quella cognizione del cuore umano che formano il carattere dei vostri, ma questa specie di superiorità non appartiene forse più agli scrittori filosofi che ai poeti? Rispose Corinna. Dopo gli ultimi secoli, avendo disgraziate circostanze privato l'Italia della sua indipendenza, vi si è perduto ogni interesse per la verità e spesse volte anche la possibilità di dirla. Ne è risultata da ciò l'abitudine di compiacersi delle parole senza avere l'ardire di avvicinarsi alle idee. La natura, che non ha voluto che due foglie si rassomigliassero, ha posto anche maggiore diversità nelle anime. E l'imitazione è una specie di morte, poiché essa spoglia ciascuno della sua esistenza naturale. Non vorreste voi già, bella straniera, soggiunse il conte d'Erfel, che ammettessimo presso di noi la barberia tedesca, le noti di Jung degli inglesi, i concetti degli italiani e degli spagnoli? Che diverrebbero mai il gusto e l'eleganza dello stile francese dopo tale miscuglio? Il principe di Castelforte, che non aveva ancora parlato, disse: A me pare che noi abbiamo bisogno tutti gli uni degli altri. La letteratura di ciascun paese scopre a chi la sa conoscere una nuova sfera di idee. Lo stesso Carlo V ha detto che un uomo il quale sa quattro lingue conta per quattro uomini. Se questo gran genio politico la giudicava così, rapporto agli affari, quanto mai non si è verificata più la cosa rapporto alle lettere. Di qualunque cosa vogliate convincerci, dovete provarla, disse il principe di Castelforte. Sì, concedeteci l'inesprimibile piacere di vedervi recitare una tragedia. Bisogna che accordiate agli stranieri, che credete di esserne degni, il singolare piacere di conoscere un talento che voi sola possedete in Italia, o piuttosto che voi sola possedete nel mondo, poiché vi è impressa tutta la vostra anima. Corinna nutriva segretamente il desiderio di rappresentare una tragedia dinanzi a Lord Nelville e di fare in tal guisa una comparsa estremamente favorevole, ma ella non ardiva accettare la proposizione senza il suo consenso e le sue occhiate glielo domandavano. Egli ne capì e siccome era nello stesso tempo intenerito per la timidezza che le aveva impedito nel giorno avanti di improvvisare e ambizioso per lei dei suffragi del signor Egermont, si unì per questo alle istigazioni dei suoi amici. Corinna allora non esitò altrimenti. Ebbene, volgendosi al principe di Castelforte, noi daremo dunque compimento, se vi fa piacere, al progetto che io avevo ideato da molto tempo di recitare la versione che ho fatto di Giulietta e Romeo. Giulietta e Romeo di Shakespeare? Gridò il signor Egermont. Voi sapete dunque l'inglese? Sì, rispose Corinna. E voi amate Shakespeare? Disse pure il signor Egermont. Lo amo come un amico, ella replicò, perché conosce tutti i segreti del dolore. E voi? La reciterete in italiano? Esclamò il signor Egermont. E io l'ascolterò. E voi pure, mio caro Nelville. Ah, quanto siete felice! Pentendosi poi sull'istante di questa parola imprudente, arrossì. Il rossore, ispirato dalla delicatezza e dalla bontà, può interessare in tutte le età. Quanto mai saremmo felici, egli soggiunse imbarazzato, assistendo a tale spettacolo. Capitolo 2. Così tutto fu messo all'ordine in pochi giorni. Furono distribuite le parti e scelta la sera per la rappresentazione in un palazzo che possedeva una parente del principe di Castelforte, amica di Corinna. Osvaldo era preso da un miscuglio di inquietudine e di piacere all'avvicinarsi di questa novella prova. Egli ne godeva anticipatamente, ma era ancora anticipatamente geloso, non di un tal uomo in particolare, ma bensì del pubblico testimone dei talenti di colei che amava. Egli solo avrebbe voluto conoscere quanto ella possedeva di spirito e di attrattive. Avrebbe voluto che Corinna, timida e riservata come un'inglese, possedesse tuttavia per lui solo la sua eloquenza e il suo genio. Per quanto un uomo sia di merito o distinto, forse non gode mai della superiorità di una donna. Se egli l'ama, il suo cuore è inquieto; se non l'ama, il suo amore proprio se ne offende. Osvaldo, ai fianchi di Corinna, era più inebriato che felice, e l'ammirazione che ella gli ispirava accresceva il suo amore senza dare per questo maggiore stabilità ai suoi progetti. La osservava come un meraviglioso fenomeno che gli compariva di nuovo ogni giorno, ma anche l'estasi e lo stupore che gli faceva provare sembrava che allontanassero la speranza di una vita quieta e tranquilla. Corinna, nonostante era la donna la più dolce, la più trattabile nel suo contegno, indipendentemente dalle sue brillanti prerogative, si sarebbe amata per le sue sole qualità comuni, ma, ripetiamolo di nuovo, ella riuniva in sé troppi talenti ed era troppo segnalata in ogni genere. Lord Nelvil, per quanto fosse dotato di superiorità, non credeva di uguagliarla, e con tale idea gli risvegliava dei timori sulla durata della loro scambievole affezione. Invano Corinna, a forza di amore, si metteva in suo potere. Il padrone, inquieto sovente di questa regina prigioniera, non godeva in pace del suo impero. Alcune ore prima della rappresentazione, Lord Nelvil condusse Corinna al palazzo della principessa di Castelforte, dove era preparato il teatro. Il sole non poteva essere più splendente, e da una delle finestre della sala si scopriva Roma e la campagna adiacente. Osvaldo fermò un istante Corinna e le disse: «Vedete che bel tempo, è in grazia vostra, deve far risaltare l'evento della vostra prova. Ah, se questo fosse», ella riprese, «sareste voi che mi dareste la buona ventura e a cui sarei debitrice della protezione del cielo». I dolci e puri sentimenti che ispira questo bello spettacolo della natura basterebbero mai per la vostra felicità? Replicò Osvaldo. Vi è molta distanza da quest'aria che respiriamo, dai pensieri che eccita la campagna, alla sala rumorosa che rimbomberà dal vostro nome. Osvaldo, gli disse Corinna, questi applausi, se li ottengo, non avranno essi forse il potere di interessarmi unicamente perché voi li ascolterete? E se io mostro qualche talento, non sarà il sentimento che nutro per voi che me lo ispirerà? La poesia, l'amore, la religione, tutto ciò che dipende dall'entusiasmo, in sostanza, è in armonia con la natura. E nel contemplare l'azzurro del cielo e nel darmi in preda alle impressioni che mi cagiona, io comprendo meglio i sentimenti di Giulietta. Io sono più degna di Romeo. Sì, ma sei degna, celeste creatura, esclamò Lord Nelvil. Sì, è una debolezza dell'anima, questa gelosia dei tuoi talenti, questo bisogno di vivere con te solo nell'universo. Vai a raccogliere gli omaggi del mondo, va pure, ma ti prego, il tuo sguardo amoroso, più divino anche del tuo genio, non si volga che verso di me. Essi si lasciarono allora e Lord Nelvil andò a prendere posto nella sala, aspettando il piacere di veder comparire Corinna. La prima volta che compare Giulietta è in un ballo dove Romeo Montecchi si è introdotto in casa dei Capuleti, i nemici mortali della sua famiglia. Corinna aveva un abito leggiadro da festa, conforme però al vestire del tempo. I suoi capelli erano graziosamente immischiati con gioie e fiori e la colpiva di primo lancio come una persona non mai vista. Poi si riconosceva la sua voce e la sua immagine divinizzata, in cui non si ravvisava altro che un'espressione poetica. Al suo comparire rimbombò la sala di unanimi applausi. I suoi primi sguardi scoprirono subito Osvaldo e si fermarono su di lui. Si dipinsero nella sua fisionomia una scintilla di gioia, una dolce e vivace speranza. Nel vederla palpitava il cuore dal piacere e dal timore. Si sentiva che non poteva durare tanta felicità sulla terra. Si doveva verificare questo presentimento in rapporto a Giulietta o in rapporto a Corinna. Quando Romeo si avvicinò a Giulietta per indirizzarle sottovoce versi così brillanti in inglese e così maestosi nella lingua italiana, sulla sua grazia e sulla sua bellezza, gli spettatori, incantati di essere così bene interpretati, si unirono tutti con trasporto a Romeo e la passione immediata che lo prese, quella passione che s'accese al primo sguardo, parve agli occhi di tutti molto verosimile. Osvaldo cominciò fin da quel momento a turbarsi. Gli pareva che tutto fosse sul punto di svelarsi, che tutti dovessero proclamare Corinna un angelo tra le donne, interrogare lui stesso su ciò che risentiva per lei, contrastargliela, rapirgliela. Io non so quale luce abbagliante passò innanzi ai suoi occhi. Temette di non vederci più e di cadere in deliquio e si ritirò dietro a una colonna per alcuni momenti. Corinna, inquieta, lo cercava ansiosamente quando pronunciò queste parole. Ah, lo vidi, ignoto, troppo presto e troppo tardi lo conobbi. Con un accento così significante che Osvaldo esultò nell'udirle, poiché gli parve che Corinna le applicasse alla loro personale situazione. Egli non poteva saziarsi di ammirare la grazia dei suoi gesti, la dignità delle sue mosse, la fisionomia che dipingeva ciò che non si poteva dire. E che scopriva quei misteri del cuore che non si possono mai esprimere e che decidono, tuttavia, della nostra vita. Nell'atto secondo Giulietta compare dal ballo nel suo giardino per trattenersi con Romeo. Di tutta l'acconciatura di Corinna non erano rimasti che i fiori, e i fiori pure dovevano ben presto sparire. Il teatro illuminato a mezzo a rappresentare la notte spargeva sul volto di Corinna un chiarore più languido e più interessante. Il suono della sua voce era anche più armonioso che nella magnificenza del festino precedente. La sua destra, alzata verso le stelle, sembrava invocare i soli testimoni degni di ascoltarla. E quando ripeteva «Romeo, Romeo», benché Osvaldo fosse certo che la pensasse a lui, sentiva di essere geloso di accenti così deliziosi che facevano risuonare un nome diverso nell'aria. Osvaldo era situato appunto in faccia al balcone e quello che faceva la parte di Romeo, essendo un po' celato dall'oscurità, poterono tutti gli sguardi di Corinna cadere addosso a Osvaldo allorché disse i seguenti versi meravigliosi. Vago Montecchi, è vero, intenso affetto io ti mostrai di troppo e forse in core ti venne dubbio di mia leggerezza, ma fida, mi vedrai, nobile Romeo. Me lo credi, più donna che amor sente e cela d'arte, or mi perdoni? Dunque, a quelle parole, or mi perdoni, perdonami di amare, perdonami di avertelo fatto conoscere, vi era nello sguardo di Corinna una così tenera preghiera e tanto rispetto del suo amante e un tale orgoglio per la sua scelta, allorché diceva nobile Romeo, vago Montecchio, che Osvaldo si sentì ugualmente altero e felice. Egli rialzò la testa, che la tenerezza gli aveva fatto piegare, e si credette il re del mondo, poiché regnava sopra un cuore che racchiudeva tutti i tesori della vita. Corinna, accorgendosi dell'effetto che produceva in Osvaldo, si animò sempre più quell'affetto di cuore che solo produce dei miracoli. E quando all'avvicinarsi del giorno credette Giulietta di sentire il canto della lodola, segno della partenza di Romeo, gli accenti di Corinna avevano un incanto soprannaturale. Essi dipingevano l'amore, ma vi si sentiva nonostante un mistero religioso, alcuna rimembranza del cielo, un presagio di ritornare là, un dolore tanto celeste come quello di un'anima esiliata sulla terra e che sta per essere richiamata ben presto alla sua patria divina. Ah, quanto mai era felice Corinna quel giorno in cui rappresentava in tale modo, davanti all'amico da lei prescelto, una parte dignitosa in una bella tragedia. Quanti anni mai, quante vite si sarebbero offuscate accanto a un tale giorno? Se Lord Nelvil avesse potuto fare con Corinna la parte di Romeo, il piacere che la gustava non sarebbe stato tanto completo. Avrebbe desiderato di scartare i versi dei poeti più grandi per parlare la stessa secondo il suo cuore. Può darsi anche che un sentimento invincibile di timidezza avesse incantato il suo talento. Ella non avrebbe ardito guardare Osvaldo per paura di tradirsi e la verità, infine spiritosa fino a questo grado, avrebbe distrutto il prestigio dell'arte. Ma quanto era dolce il trovare là colui che ella amava quando era messa in moto da quella alterazione che la poesia sola può produrre. Giulietta, nell'atto terzo, diviene segretamente sposa di Romeo. Nel quarto, volendola i suoi parenti costringere a sposarne un altro, ella si decide a prendere la bevanda narcotica che le è stata somministrata da un frate e che deve farla sembrare morta. Tutti i movimenti di Corinna, il suo passo agitato, i suoi accenti alterati, i suoi sguardi, ora vivaci, ora abbattuti, dipingevano la battaglia crudele della paura e dell'amore. Le immagini terribili che la perseguitavano al solo pensare di vedersi trasportare viva nelle tombe dei suoi antenati combattevano con l'entusiasmo della passione che faceva trionfare uno spirito così giovane di uno spavento tanto naturale. Osvaldo sentiva come un bisogno cui non si può resistere di volare in suo soccorso. Una volta ella alzò gli occhi verso il cielo con ardore che esprimeva intimamente il bisogno della protezione divina di cui un essere umano non può mai fare a meno. Nell'atto quinto, Romeo, che crede Giulietta senza vita, la solleva dal suo sepolcro prima che si risvegli e così svenuta se la stringe al seno. Corinna era vestita di bianco, i suoi capelli erano tutti sparsi e la sua testa si piegava verso Romeo con grazia e nello stesso tempo con verità di morte, così commovente, così tetra, che Osvaldo si sentì scosso simultaneamente dalle impressioni le più opposte. Egli non poteva tollerare di vedere Corinna nelle braccia di un altro e fremeva in contemplare l'immagine di colei che amava priva in quel modo di vita. Egli provava finalmente, come Romeo, quel miscuglio crudele di disperazione, di amore, di morte e di voluttà che rendono questa scena la più dolorosa di tutte. Infine, quando Giulietta si sveglia dal sepolcro ai piedi del quale si è immolato il suo amante, e quando le sue prime parole nel feretro e sotto quelle funebri volte non sono ispirate dallo spavento che le dovevano cagionare, grida affannosa: «Il mio sposo, dov'è il mio Romeo?» Lord Nelvil rispose a quelle strida con gemiti e non ritornò in sé che allorquando fu trascinato dal signor Egermont fuori della sala. Terminata la rappresentanza, Corinna si sentiva male, e per la passione e per la fatica. Osvaldo fu il primo che entrò nella sua camera e la trovò sola con le sue donne, vestita ancora degli abiti di Giulietta, e come lei quasi tramortita tra le loro braccia. Nell'eccesso del suo turbamento non sapeva distinguere la verità dalla finzione e, gettandosi ai piedi di Corinna, le disse in inglese queste parole di Romeo: «Eyes, look your last arms, take your last embrace. Oh, miei occhi, guardatela per l'ultima volta. Oh, mie braccia, stringetela per l'ultima volta al mio seno». Corinna, tutta smarrita, esclamò: «Grande Dio, che dite voi mai? Vorreste voi lasciarmi? Lo vorreste? Voi?» «No, no», interruppe Osvaldo, «no, io giuro». E in questo istante la folla degli amici e degli ammiratori di Corinna apre a forza la porta per vederla. E la guardava Osvaldo, aspettando con ansietà ciò che stava per dire, ma non poterono altrimenti parlarsi in tutta la serata e non si trovarono soli un solo momento. Nessuna tragedia aveva mai prodotto tale effetto in Italia. I romani esaltavano con trasporto la traduzione, l'opera e l'attrice. Dicevano che quella era la vera tragedia adattata agli italiani, che dipingeva i loro costumi, agitava l'anima, interessando la loro immaginazione e faceva avere in pregio il loro bel linguaggio, con uno stile alternatamente eloquente e lirico, ispirato e naturale. Corinna accoglieva tutti quegli elogi con l'aria della dolcezza e della cortesia, ma la sua anima era rimasta sorpresa a quella parola «Io giuro» che Osvaldo aveva pronunciato senza che potesse aggiungere più per la gente sopravvenuta. Quella parola, infatti, poteva contenere il segreto del suo destino.